a chi è single. Poi dicono che non sono autoreferenziale. No, assolutamente. E infatti qui abbiamo delle ospitesse, non si può dire delle ospiti. Delle ospite. Ospite, ospite. Delle ospite. È una sindaca, ma ospita. Che bisogna alzare il volume di là però, perché non le sento mentre parlano. Sì, ma non ti preoccupare, dopo poi le sentiremo. E abbiamo, no, vado? Anche perché tu stai cacciando dei granurli. Allora io a quel microfono. Magari ti abbasso io, va. Ecco. Come state ragazze di là? Bene, perfetto. Quante fantastico. Siete? 4. 44. L'importante è saper contare. 49. Allora, singole molteplici, ma soprattutto single in questa occasione. Abbiamo la dottoressa Dantes. Buonasera, i telespettatori. La dottoressa, no, non è dottoressa, mi scusi, Anita Pons. Ciao a tutti. Che loro sono delle missionari. No, sono in missione da Radio Montecristo, sezione d'Elba. Senti, ma io dove... posso fotografarle e poi dopo le pubblichiamo oppure rimangono in incognito poi, per sempre? Se li metti poi. Ah, perché okay, no, fantastico. Sono operazioni estremamente, estremamente delicate. Allora, fotografo quello. Ok. E, che sono venute qui a guidare noi attraverso questo spinoso percorso delle chat che ci aiutano ad incontrare altri singoli. Insieme a noi ci sono poi anche delle esperte. Ah, però. L'esperta Emma Boni. Bovini, mi scusi, Bovini. Che ho col francese, poi con le gaffe, io devo farne almeno uno o due per puntata. Con l'occhio della mucca al pascolo. Benissimo, benissimo, Bovini. La ringrazio. E poi, visto che il coxo ci tiene anche alla tradizione e alla tradizione oltre, abbiamo una esperta di Befane Galattiche che si chiama X e di cognome XXX. Benvenuta. Ah, buonasera, la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte, oh. Con le toppe alla sottana, viva, viva la Befana. E viva la Befana, siamo... Quindi vous connaissez la... Lorenzo Sarno? Ah, è una domanda io per l'ho incontrato. Io l'ho incontrato. Ah, sì. No, quella... perché sembra che sia disperso. Lo stanno cercando coi cani da valanga, anche i cani molecolari. Cioè, ieri sera è andato a Verona al Decadence e non è più tornato. C'è rimasto soltanto una specie di straccio da parabrezza che è stato fatto annusare i cani molecolari che sono alla ricerca. Abbiamo speranze. Ottimo, comunque. Ma forse sei innamorato, ha finito la sua vita di single. Può darselo, non si vedrà dopo più su internet. Non lo vedremo. Sarà occupatissimo. Beh, e allora. Vous connaissez Lorenzo Sarno? Lorenzo Sarno, sì, io lo conosco. Chi è? È stato un rinomato ospite del Coxo, nonché famoso stanzonista. È un leopardiano, un leopardista. Si dice così? Sta. Un leopardista. Comunque, avevi detto che il numero della puntata è? Il 166. La 166. La 166esima puntata di Coxo Spaziale sta per iniziare. E gli ospites, le ospite ve le ho già presentate e il tema saranno le chat per single. Stai ascoltando Coxo Spaziale. Mi parla sempre sopra questa cosa. Lo so. Succede così. Dunque, branino e poi tuffiamoci nelle chat. Un branino, ho pensato, siccome è una serata romantica, incognita. Ho pensato di mettere un pezzo Oi, si chiamano Zona Popolare. sentito? Ho sentito, sì. Allora, quindi. No, non ho le cuffie, ecco perché non sentivo. Ah. Spaventosi, questi zona popolare, no. Sono qui di questa zona, sono della Bolognina. Ah, bellissimo, aha, meraviglioso. Ma ti hanno mandato loro l'MP3? Uscito da molto pochissimo, no? Me l'hanno dato a mano. A mano? Dato un CD a mano. Inseguito per la strada. Ehi, esatto. Tu, Pasquini. Esatto. Esattamente. Bene, io devo dire una cosa non meno importante, mm-hmm. Perché anche a me mi hanno tirato per la giacchetta, no, per l'orecchio, dicendomi, ehi, tu. Allegra. Ehi, tu. Dici troppo poco il numero di telefono, non faccio in tempo a scriverlo e a chiamare, quindi... Allora lo dico io, guarda, 333-180-94-94. Lo ripeto, 333-180-94-94, oppure... 3.331.809.494. E a 3.331.809.494. C'era la scena che faceva anche lei, è così, vero, eh? Che fa sempre 333-180-94-94. A parte la Claudia Basso che invece ci deve telefonare allo 051-34. No, non dirlo! non lo dico. Non si dice, non si dice forse sì, sennò, non lo so, non lo però so. Non l'abbiamo mai detto. Io non sono in grado di prendere le e telefonate. E adesso, dopo le dovute, insomma, che abbiamo appena fatto, che non so neanche cosa siano, cominciamo ad entrare nel vivo dell'importantissima 166esima puntata di Coxo Spaziale, che ci aiuterà ad addentrarci nei meandri del mondo delle, come le chiamiamo, esperte. Sto parlando con la dottoressa Dantes ed Anita Pons, che sono in delegazione da Radio Montecristo sezione Elba, e sono qui perché hanno costruito negli anni delle rubriche dedicate appunto a questo mondo. Negli anni. Sì, abbiamo raccolto diverse esperienze, racconti. Come potremmo chiamarle? Chat? Chiama? Dunque, tecnicamente andrebbero chiamate dating app, ma visto che sono anche dei siti, per chi non ha lo smartphone, li potremmo chiamare anche dating site. Hai capito. Insomma, Radio Montecristo. Aspettate un attimo. Radio Montecristo. Ah, fantastica, in coreano. Sì, in coreano. No, in coreano però dice lo pronuncia. Radio Montecristo. Quindi, brava questa signorina coreana. Di questi anni di ricerche. Mm-hmm. Anni. Io mi è parso di aver capito che voi siete giunte all'identificare una specializzazione, nel senso che ciascuna di voi ha riconosciuto l'universalità e la grandiosità dello strumento in una di queste cose che l'ha chiamato lei prima, che io non mi ricordo. Dating app. Mm-hmm. E sulle quali continuate a misurarvi facendo crescere lo spunto scientifico della vostra ricerca. Sì, allora io, dottoressa Dantes, mi sono specializzata in OkCupid, che è una di queste app che per cellulare c'è anche il sito, mentre la mia collega Anita Pons è una specialista di Tinder. Ah, Tinder l'ho sentita anch'io. Tinder è diffusissimo. Io penso, adesso non conosco esattamente tutte le altre applicazioni, ma no, penso non che dica in Italia... così, non dica così. Ma perché sono proprio specializzata in quello, non è che vado a guardare a casa degli altri, quindi... Io non sto capendo niente, di che cosa parliamo? Penso che... Delle chat room per single, sai, dove ti scrivi, ti conosci, guardi la foto, questo mi piace, questo non mi piace. Ma come sono queste foto? Sono professionali oppure sono così, tipo che le dite? Fototessera? Che la gente si mette le foto, oppure ognuno si mette... È un luogo spontaneo. È tipo Facebook, ognuno fa quel cazzo che vuole, ho capito. Quel tipo... coxo. Quel coxo che vuole. Ognuno fa quel coxo che vuole. Ancora. Scusatelo. Potremmo quindi definirli social network anche, o forse chat. Chatline. Esatto. Ma come ci si avvicina? Ovviamente le altre ospiti, l'esperta Emma Bovini. E la nostra esperta XXX, se hanno XXX domande, non contributi. Ha ancora parlato. Noi invece stiamo parlando anche troppo, mi sa, soprattutto lui di Google. Se volete intervenire con domande, io sono piena di curiosità a riguardo, perché insomma è una realtà quasi più reale del cioè non lo so. Io volevo dire che anche le befane intergalattiche usano Tinder. Ah sì? Sì, sì, sì. Vedi. Perché ovviamente anche le befane hanno il diritto di, insomma, no, indubbiamente trovare qualcuno durante l'anno quando non lavorano. Il 6 gennaio è l'unico giorno che comunque sono piene di lavoro. E poi volevo chiedere come funziona l'altra. Per me personalmente non mi funziona bene Tinder. Ah, come funziona non Tinder? So. Quindi chiedevo all'esperta. Ma non funziona bene. Ma sì, facciamo un cappello introduttivo, sì, per chi non conosce questo mondo ed è curioso. Sono ma piena non... di curiosità. Esatto. Non nell'altra lingua, per favore. No. Beh, possiamo dire così in generale come fatto, che cos'è per, non so, per una zia che non ha mai sentito parlare di questo, di questa applicazione. È una facilissima applicazione, è proprio demenziale come si dice? L'accessibilità. Entrarvi. E, tu lo scarichi sul tuo telefonino, crei un tuo nickname. E poi nel caso di Tinder carichi una o più foto, per le donne è sufficiente una foto. Una è foto già, qualunque, e già uomini c'hai 200.000 chiaramente devono follower. Lavorarci un po'. C'è molta più discriminazione. Senti, vero? Ma ci sono questi che mettono più selezione. Il selfie in bagno, com'è con gli uomini? C'è? Esiste? C'è il problema del selfie in bagno? Stai toccando un argomento molto imbarazzante, perché gli uomini si sa vanno sempre subito al dunque, no? Quindi purtroppo le fotografie degli uomini sono o estremamente esplicite oppure... Sono piena di curiosità. Infatti, pian piano. Altrimenti ci sono foto di moto. L'uomo mostra la moto quando vuol far vedere che gli attributi anche sono... Le befane mostrano la scopa, scusate. Infatti le befane, adesso poi ci spieghi tu. La scopa a motore. Perché? Ah, ma quella con cui proprio, di quella professionale. La professionale, sì, perché sai, ormai ci siamo tutte le befane intergalattiche, usano scope ormai potentissime, minimo 600 cilindrata. Ah, io non me ne intendo di queste cose, sto prendendo la patente dai adesso. Dai 40 cavalli in su comunque. Ok, cavalli, sì, nella scopa. Sì. Meraviglioso. Hai detto tutto. E, si potrebbe dire invece che il dottor Edmond Dantès qui accanto a me... può parlarvi del panorama europeo e mondiale di questa cosa, perché... ha un'esperienza molto più vasta della mia. Esatto, perché dal momento che Tinder si basa sulla territorialità, la geolocalizzazione, è facile trovare qualcuno che è vicino a te. Sarebbe quindi, quello infatti lo quindi scopo. Quindi si può settare a quanti metri essere in prossimità dell'oggetto, dei tuoi desideri, quindi magari... Je vous donne le balai. Di chilometri. Mentre OK cavalli Cupid nella scopa. cavalli. Mentre OK Cupid è molto più interessante da un Cupid. Punto di vista, come dire, di commerciale, statistica internazionale, no. Perché è ma possibile parlare con come? Di fruizione, l'interesse. Di fruizione, esatto. Perché è possibile parlare con chiunque in qualunque punto del globo senza settare una vicinanza particolare e quindi è possibile intrecciare relazioni con persone anche dall'altra parte del pianeta. Inoltre che Cupid... Chissà quante cose avrete in comune. A parte il fuso orario. Litigano che Cupid e Tinder? No, dico, non chi va su OK Cupid e non va su Tinder o... Ecco, questo è un oggetto di studio ancora da sviscerare, perché noi crediamo che ci siano molte persone che hanno sia dei profili su Tinder entrambi. Che su OK Cupid, okay. E che magari utilizzano anche foto diverse, ma quello che è interessante su OK Cupid è che non basta mettere una foto, bisogna compilare un profilo. Esatto, sul profilo volevo chiedere, perché esatto. qualche consiglio per massimizzare le prestazioni? Sì, beh, il consiglio innanzitutto è di non perdersi d'animo. La prima domanda che ti fanno quando apri un profilo su OkCupid è: qual è il tuo orientamento sessuale? Sarebbe semplice pensare che c'è soltanto straight, etero, oppure omosessuale. In realtà si apre un menu a tendina in cui ci sono almeno 20 orientamenti possibili sessuali, fra cui la asexual, il pansexual, l'eteroflexible, il bisexual e il demisexuale e altre possibilità, fra cui anche credo il come si dice cavalli nella scopa. Proprio cavalli nella scopa, ecco, io quello volevo cliccare. Bene tra l'altro vorrei incoraggiare, vedo la dottoressa Emma, posso chiamarla Emma? Ah, De Bovini, da lì si legge meglio che dove lo scrivo, lì sì, che ovviamente vedo che la sta studiando con molta attenzione l'inizio del dibattito, la invito a porre qualsivoglia domanda sulla base della sua molteplice qualità di esperta, perché abbiamo anche qui una tendina volendo. E fra l'altro mi faccia ripetere 333 180 94 94 per chi voglia approfittarsi di questa imperdibile occasione. Mi dice Claudia Basso che ha tentato di telefonare ma non rispondiamo. Non le abbiamo risposto. No. Ma allora la chiamiamo noi dopo. Chiamiamola noi dopo. No, ero incuriosita da questo fatto che Tinder quindi ti cerca qualcuno vicino, quindi è finalizzato a incontrarsi in qualche modo fisicamente, con tutto quello che ciò comporta, mentre che Cupid può anche rimanere un rapporto epistolare, praticamente epistolare, sì. Non diventare pistolare, diciamo. Sì, epistolare, cioè non bisogna pistolare. Non bisogna pistolare, esattamente. Troppo. Ma comunque è assolutamente vero, e infatti OK Cupid promuove anche la mobilità. Pare che lo sponsor sia Ryanair, che ha fatto le pubblicità. Esatto, scusate una domanda, ma e quindi Tinder è solo per eterosessuali, vero? Non c'è altra opzione? Assolutamente o... no. No, non credo. Penso oltre alla foto scrivi appunto di quanti chilometri vuoi spostarti, tendenzialmente pochi appunto, e poi se cerchi uomini, donne o uomini e donne. Ah, quindi c'è il profilo anche su Tinder? Non hai questa, perché adesso io penso, non mi intendo. Tipo una lista della... No, sono solo va, diciamo così. Si va a chilometri comunque, non a orario, cioè non è... No. Ok, vado di 8 ore di Flixbus, che significa no, tipo... Affatto. Quello è sì Cupid. 30 chilometri, no, esatto. Quello è OK Cupid. Ah, quello okay. È OK Cupid. Sì, esatto. Okay. Okay. Punti, diciamo che su Tinder fai una specie di lista della spesa, cioè tu scrivi cosa vuoi, uomo, okay. Donna, vicino, lontano, okay. E età. E non è che devi descrivere, cioè non è obbligatorio. No, non c'è. No. Infatti, vedi, questo apre un capitolo. Dalla foto, cioè, come tu fai? Il macro tema è tu selezioni queste persone da una fotografia. Ma sarebbe bruttino se io come prima cosa chiedessi quanto sei alto? Allora, sì, no, l'approccio nelle chat c'è, cioè, o il romantico che fa tutti dei giri di parole, o chi chiede subito altezza, peso, altri dettagli, anche scopi lunghezza. Per cui si è lì. Cioè, uno ti dice subito: spessore. Sei qui per questo o per quest'altro. Ma secondo voi. L'image que vous devez comprendre à quelle hauteur. Capito? No, non ho capito. Dalla foto devi capire quanto è alto. Queste so di persone che però, hanno avuto delusioni. Su ecco. Un'applicazione di cui mi è giunta voce. Lovo. C'è anche l'altezza. Ah, sì, anche in OK Cupid c'è l'altezza. Ah, davvero? Ah, sì, naturalmente. In OK Cupid puoi mettere qualunque attributo tu abbia, anzi ti viene richiesto se sei magro, average, cioè medio, certo, oppure average, ben messo, slender, oppure cicciottello, oppure oversize. O preferisco non dirlo, che è comunque sempre sconsigliatissimo dirlo. Molto imbarazzante. Meglio mentire delle due. Ecco, qualche consiglio. Chiede GIFO se c'è GIFO sexual su Tinder. E c'è? Questo è leggermente autoreferenziale, che è un commento che piacerebbe molto al nostro direttore. Allora, c'è qualche consiglio sulla base della vostra pluriennale esperienza per chi voglia aprire un profilo, cose da assolutamente non fare, cose da fare, o vogliamo lasciare questo alla seconda parte della puntata e intanto concentrarci su altre domande per questi ultimi due minuti che ci distanziano dalla pubblicità? Ma possiamo parlare anche in due minuti, io credo che soprattutto se ne parlerà prima la nostra Anita Pons su Tinder, prego. Cose assolutamente da non fare? Sì. Postare il cazzo. Oddio. Per no! Vabbè, allora, uomini con occhiali da sole, non si vede la faccia, come faccio a dire se mi piaci? Okay. Ecco, foto di gruppo. Ah, ho capito, fantastico, che vi aiuta a star con gli amici, però non è che siete tutti assieme, è uno. Ah. E allora scorri ste foto e dice qual è? Allora magari metti, perché metti, diciamo, metti o sì o no, o cuore o X. Tanti usano anche i bambini, vero? Foto con bambini, c'è, sì, tutta, certo, una filone di gente che preferisce far vedere che hanno dei nipoti, non figli, ma nipoti. No, no, c'è anche chi mette subito in chiaro che ha una famiglia, il che dici, scusa, ma allora cosa, ma stiamo... Ma la famiglia ha molte forme, nel senso, può esserci il marito... No, con no, c'è anche l'occupato, c'è anche lo sposato. Ah, ok. Ah, proprio dichiara, così, che dichiara, cosa dichiara? Se la moglie lo sa o non lo sa? E chi lo sa? Sì, lo bisogna chiedere. Magari si è registrata anche lei, chi lo sa. Allora, vorrei chiedere, vorrei di nuovo chiamare in causa la dottoressa Bovini in qualità di esperta in amori romantici. Bello. Questa trasformazione, grazie, perfetto. Ecco, adesso sì. E questa trasformazione, questi dialoghi, ad esempio, il fatto che su OK Cupid ci sia anche l'asessuato come categoria. Esatto, questa cosa è la forma del rapporto epistolare come nel 1800. Mozart scriveva lettere d'amore continuamente, le sue volgarissime comunque, ma le sue innamorate nel 1700. È la quintessenza del, in qualche modo, del romanticismo, del girarci attorno, eccetera. E poi se non puoi avere. Oui? Ripeto. Je ne comprends pas. Sarnou, êtes-vous? Sarnou, où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Dove è andato Sarnou? Dove sarà? Ah, forse su OK Cupid, non abbiamo provato a guardare se... Ma OK Cupid è quello che scuoti se, e ti dice se c'è qualcuno qua vicino, perché un giorno l'ho visto, no. Mi ha fatto vedere questa app per, in realtà... Sarno? La chiamata app Petromba. In effetti è una messa, sintesi perfetta, esatto, e si è messa a scuotere il cellulare che diventava verde e diceva vedi qua a 200 metri c'è, c'è questo che è esatto, anche per analfabeti totali, diciamo, non è neanche da digitare, esatto, non devi digitare niente, scuoti un attimo il cellulare e ti dice guarda qua a 200 metri c'è. Esatto, c'è questo, mi spaventa, diciamo, di più Tinder, perché lì poi ti incontri, dopo le devi mettere in chiaro, le carte, certo. Ad un certo punto. Certo. Anzi, a parte non, cosa, è molto, cioè... non è molto ben accolto chattare a lungo, cioè dopo un po' no, esatto, sta gente vuole tagliare. No, mi ricorda un pochino la cosa quella per ordinare le pizze, no, per ordinare le pizze, questa cosa, diciamo, che fa la lista della spesa, poi ti viene consegnato a seconda della distanza, come selezionare il ristorante per farsi mandare il sushi, la pizza. No, è proprio si la può spesa. Fare anche assieme, forse. No, è proprio la spesa, nel senso che ti arriva la spesa a casa. E poi tocca cucinare. Esatto. Puoi farti mangiare, mandare del precotto anche lì, non lo so come funziona, esatto. Oppure con Tinder ti fai mandare l'appuntamento e la pizza. Non lo so. È come la vita vera, c'è esatto. Chi. La rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. La banalità è ciò che ci salverà, o almeno salverà me. Se ci penso, nella mia vita, a forza di dover riempire di senso la giornata, ho fatto cose veramente molto stravaganti. Ho tenuto in mano una tarantola con gli occhi chiusi, io non la tarantola. Ho abbracciato un albero, ammetto che però ero da solo. Ho detto ti amo credendoci, a mia discolpa, posso dire che ero molto giovane, e ho detto ti amo non credendoci, ero cresciuto. Ho passato innumerevoli serate nel tentativo di trovare l'alba nel tramonto, senza riuscirci, ma almeno mi sono risparmiato di svegliarmi presto. Ho toccato un iceberg, e sì, l'ho fatto, era freddo e duro. Mi sono fotocopiato il culo, alzi la mano chi non ha mai almeno pensato di farlo. Ho fatto un bagno romantico a lume di candela, non vi dirò mai con chi, e ho messo in atto una fantasia erotica pensata a lungo. Non vi dirò con chi, ma posso confidarvi che il pensiero era meglio. Ho preso il sole in topless, ma questo era facile. Ho fatto una home run, e non è il nome di un cocktail. Ho mangiato le sise delle monache con Pasquini, solo i mistici d'Oriente potranno capire. Volevo tatuarmi il simbolo dell'infinito, ma siccome mi pareva troppo banale, mi sono tatuato una donna che parcheggia. Solo allora ho capito che forse era giunto il tempo di tornare a fare cose banali. Cox spaziale. Un assalto a vino? Sì. Spaziale, Cox. 2 minuti di rally dopo. Spaziale. Parlano qua, cosa dicono? Anch'io parlo. I 2 minuti. No, dopo. No, dopo. Abbiamo una puntata ricchissima, addirittura. Ricchissima. La nostra esperta XXX di Befane Galattiche avrebbe un appunto da fare al dottor Zino. Ah, un appunto per prego. Zino. Sì, allora, dottoressa XX, vada. Salve, buonasera, bentornate. No, volevo capire, cioè non ho capito proprio questa battuta su volevo tatuarmi l'infinito e mi sono tatuato una donna che parcheggia. Non l'ho capito. È un diciamo, po' usci- cioè, la... ti ricordi... è uscito un po' la vita. Ti ricordi la puntata in cui c'era l'Antonia Ciavarella? Mi ricorda quella situazione lì, quell'atmosfera in cui tu sei stato crocifisso perché hai fatto una battuta spiacevole di genere. Esatto. Stiamo ritornando alle origini in questo 2017. Sì, sì. No, è più che altro tutte le Befane intergalattiche sfidano Zino a parcheggiare la macchina quando vuol venire. Facciamo una gara di parcheggio, vediamo chi la parcheggia meglio. Attenzione che il 20 gennaio Zino sarà a Bologna e faremo la gara di parcheggio. Sì. E comunque le donne guidano meglio degli uomini, infatti fanno anche molti meno incidenti, queste sono statistiche e fatti. Io ci metterei lo stacchetto della menzione. Io non sì. Ce l'abbiamo. Ah no, ce l'ho. Questo okay, qua. Vai. Ecco, ci sta. Grazie dottoressa. Prego. E allora riprendiamo perché abbiamo un ospite telefonico. La signorina Carolina Invernizzi. Carolina Invernizzi è qui con noi? Carolina, ci Ebbene, sei? Sì. Eccola. Sì, ciao. Lei ci ha contattato perché stava ascoltando in maniera molto appassionata la puntata, tant'è vero che ha provato ad aprire un profilo su Tinder. Dico bene, Carolina? No, su OkCupid, okay ecco. Perché su Tinder mi sentivo... Brava, buona parata. Scelta. No, però mi fa piacere. Mi sono persa nel primo menu a tendina perché nelle scelte sono dovuta andare su Google a cercare i significati di alcune scelte, tipo sapiosexual. Sapiosexual? Adesso sì. Mi sono venuti dei dubbi su cosa, cos'è? Cosa sono io. Allora, sono quelli che amano l'intelligenza. Ah, hai capito. Amano l'intelligenza, cioè allora, quanto erotica l'intelligenza poco. E mi sono persa perché allora cerco uno normale, cioè vabbè io sono etero, allora cerco uno normale o cerco sono attratta in maniera erotica anche dall'intelligenza e qui poi devo scegliere e se voglio tutto. Ma come tu ben sai, non si può scegliere anche più di uno. No, ma poi come tu ben sai non si può avere tutto. Non in internet, almeno quello. Come ubiquità. In internet si può avere tutto? Perché non si accende il telefono? Se ci stanno messaggiando. Mi scusi. No, ci stiamo messaggiando, sono qui alla regia, te lo dico in diretta. Mi scusi, infatti mi ha detto Giffo che ti corteggerà su Tinder. Ah, io però il profilo Tinder non ce l'ho ancora. Male. Allora, ma quindi devo fare Tinder anch'io? Occhio che però arriva Giffo che ti corteggia, non so se sei pronta per questa esperienza. Meglio per te, è un po' impegnativo, sì, un personaggio un po' impegnativo. Ma non lo so, dottoressa sì. Dantes, mi scusi. Sì, effettivamente si può avere anche più di un orientamento sessuale su OkCupid, anzi è consigliato metterne il più possibile in modo da acchiappare il più possibile. Tutti su OkCupid allora. Aspetta, okay, sì, che sì, si stanno misurando in diretta la nostra ospite telefonica e la dottoressa, non copriamole. Abbiamo notizia ad esempio di una ascoltatrice di Radio Montecristo che per caso ha cliccato sia asexual e pansexual contemporaneamente e ha creato quindi un profilo che ha gettato molti avventori, se così si può dire, di OkCupid nel panico, pertanto per settimane ha ricevuto soltanto delle richieste di spiegazioni. Vita in diretta. Ma se c'è riuscita a dare delle spiegazioni va anche bene. Io non vorrei dare delle spiegazioni, però le chiedo. Forse l'ideale allora è scegliere altro. Ho capito. Non la sento convinta, no, Carolina. Perché non mi fa tornare indietro. Accidenti, che cosa hai inavvertitamente già scelto? Spero non pansexual. Mi hai schiacciato. No, perché quello mi sembrava complicato per me, già dalla prima ricerca su Google mi sembrava parecchio complicato. Ce lo può dire che cosa le ha detto Google? Sul semplice straight. Straight. Sono andata sullo straight, solo che poi adesso mi sta chiedendo se credo in Dio, se è molto importante Dio per me. Cioè, mi sta facendo delle domande... Ma certo, perché OkCupid si basa... Se sei straight devi essere sulle percentuali. Sì, esatto. A fare l'applicazione ci metterò 6 mesi. Esatto, qual è... Scusate, posso chiedere... In Tinder la cosa è molto veloce. Invece qual è il tempo medio di compilazione di un profilo. Beh, ci sono alcuni profili che sono bellissimi, mi sembra di leggere dei romanzi. Ci sono soprattutto alcuni ragazzi norvegesi che sono degli appassionati, per esempio, di informatica. Tendono a scrivere pagine e pagine e pagine di profilo. In linguaggio DOS. Esatto. E alla fine scrivono sempre qualcosa tipo: se sei arrivata fin qui, probabilmente sei la mia anima gemella. Ovviamente nessuno arriva fin lì, nemmeno io lo so, perché ho detto questa cazzata, perché nessuno si legge mai. È coxata, dottoressa, mi scusi. Coxata. E tra l'altro la nostra ospite telefonica Carolina ha anche una particolare connessione con un'altra nostra ospite in studio, ovvero l'esperta di Befane Galattiche, poiché mi diceva Carolina, sì, che lei ha la fortuna di vivere in una città in cui in questa giornata si fa quello che noi a Bologna facciamo il 31, ovvero c'è un rogo, però non si brucia il vecchione, ma si brucia proprio la vecchia. Che sarebbe la Befana. Quindi se vuole, se propongo uno scambio di opinioni tra la nostra esperta e lei, testimone diretta di questa tradizione. Sì, beh, io devo dire, sono riuscita ad essere testimone diretta di tutto il rituale soltanto una volta, perché il rogo della vecchia si fa in una piazza super gigante, dove arrivano dalle 2 del pomeriggio, il rogo alle 5, cioè poi richiama gente da tutta la provincia, qui non ci si muove. Da tutto, probabilmente anche da tutto il mondo, devo dire. Io conosco uno che è da Fort Lauderdale, che è partito dal Giappone per vedere il rogo, per vedere la vecchia di Padova. Ma infatti forse l'ho visto anche io, il suo amico giapponese, prima nella folla. E oggi davano, perché si fa all'Epifania questa cosa, oggi davano anche la cioccolata gratis, ma non sono riuscita ad avvicinarmi al barattino della cioccolata, perché il suo amico giapponese, insieme ad altri 10.000, era lì davanti. Tutti giapponesi. Davano anche 7.000, tutti giapponesi, e regalavano anche 7.000 calze. Non sono, cioè, questo era scritto sul, ma erano a rete o erano calzette di Decathlon? Non l'ho visto. Su questo visto, allora c'era una confusione spaventosa. Adesso il rogo della vecchia, però appunto quest'anno sono riuscita neanche ad avvicinarmi alla piazza. Dal primo anno che l'ho visto, ho visto tutto quanto il rogo, poi ci sono i pompieri intorno, perché è una pira di 5 metri che brucia. E ti interessavano particolarmente quelli? Molto di più mi interessavano. L'anno scorso sono arrivata tardi, quindi sono arrivata che i pompieri avevano già fatto pozzanghere tutta la piazza, facevano freddo. Quanti pompieri ci saranno sulle social app per single? Ma no, comunque ecco, chiudiamo prima il cerchio e ripassiamo la parola all'esperta di Befane Galattiche. Sicuramente di fronte a questa tradizione avrà dei commenti. Sì, infatti, perché appunto la festa della Befana in realtà è una festa tradizionale antichissima, ancor prima, cioè poi è stata, diciamo, inglobata dal cattolicesimo, ma era una festa pagana che celebrava proprio un antico passaggio, cioè che celebrava la natura, il dodicesimo giorno dopo il Natale. E, in cui si credeva che in queste 12 notti, diciamo, soprattutto gli antichi romani, delle donne passassero sopra i campi per fertilizzarli, e quindi da qui la scopa, la donna volante, diciamo, poi la scopa è stata aggiunta dopo. E però in alcune è anche molto legata questa festa al rinnovamento, infatti Epifania vuol dire manifestarsi, e quindi alla luce, in alcuni posti appunto si festeggia facendo un rogo, accendendo dei fuochi. E alcune feste, infatti, poi durante il periodo della, cioè durante questi riti, cioè questi riti sono stati durante il periodo, insomma, dei roghi alle streghe, sono stati un po' censurati, però è molto legato a spaventoso. No, quindi volevo chiedere perché ma si brucia proprio una strega? Sì, c'è una pira gigantesca tutta quanta di legno, ma alta, altissima, con tutta la transenna intorno, perché dei 10 milioni di persone che ci sono in piazza non ci vadano sopra, e sopra c'è proprio la testona di una befana. A questo penso punto penso in legno anche quella. A questo punto io sono più interessata a sapere i pompieri quando li incontra, però mi sembra che sì, l'epifania sarebbe la rivelazione del pompiere su Tinder. Su Tinder. Questo ma non c'era pompiere nelle scelte. Sexual. Laura. Always had a roof above me, always paid the rent. And I never set foot inside a tent. I couldn't build a fire to save my life. I lied about being the outdoor type. Never slept out underneath the stars. The closest that I came to that was one time my car broke down for an hour in the suburbs at night. I lied about being the outdoor type. You were looking for a light until I fit the bill. God bless the great indoors. I lied about being the outdoor type. I never owned a sleeping bag, let alone a mountain bike. Can't go away with you on a rock climbing weekend. What if something's on TV and it's never shown again? It's just as well I'm not invited. I'm afraid of heights. I lied about being the outdoor type. Tra l'altro questo brano era perfettamente in tema. Ah sì, di cosa parlava? Parlava di questo, che dice che praticamente mente alla sua fidanzata quando all'inizio del dating gli dice che è una persona da sport estremi all'aperto, capito? Dopodiché tutta la canzone dice: ho mentito sul fatto che mi piacciono gli sport esterni. Vedi. Sì, grazie Stefano per il tuo contributo. Questi erano i Lemonheads, se stiamo parlando degli anni 90 naturalmente. Grazie, prego. Grazie Stefano. Ritorniamo un attimo nel vivo della, perché quello che ci rimane da toccare al momento è la parte più piccante, qualche esempio reale. Sì. Qui si entra nel torbido. Approfittiamo della vostra raccolta, perché ovviamente si tratta anche di ricerca di taglio antropologico. Noi abbiamo delle professioniste. Insomma, Radio Montecristo è famosa nel mondo delle chat per single. Diciamo che ci siamo fatti una certa specializzazione. Esatto. Molte esperienze. Perciò qualche esempio di messaggio, oppure anche cose che avete sentito ai limiti del concepibile. Sì, diciamo che su OkCupid, col fatto che non si sta vicini territorialmente, le persone si spingono magari un po' più in là rispetto a una normale chiacchierata che si può fare su Tinder, con la speranza di incontrarsi poi al bar dopo un'ora. E quindi capita che si arrivi subito al sodo, soprattutto su delle faccende che riguardano il cosiddetto mondo BDSM o BSDM o BMSD, nessuno si ricorda BDSM. Vabbè, quella chiederle, il codice International Standard Booking Number. Tra le come International Standard Booking Number. Proprio quello, stiamo parlando di quello. Allora, è importante avere l'ISBN. Sono contenta, Stefano. Sono contenta che tu lo puoi mettere anche quello nel profilo. Esatto. No, dottoressa, visto che sta per andare a leggere delle fonti, volevo chiederle di stare alla coxologia di base. Ma certamente. Laddove ci siano delle parole non propriamente da fascia protetta, di sostituirle con la declinazione in coxico. Certamente, ma nessuno è così mai così esplicito e così chiaro da poter far capire qualche cosa di quello di cui diamine parlano. Per esempio, questo signore di nome Tlas ha fatto sapere, ha approcciato una delle nostre spettatrici di Radio Montecristo chiedendole se era dominante o no, e ha una risposta un po' vaga di questa donna. Ha risposto: comunque sono anche io nel BDSM, più impact play che bondage, però le corde non mi fanno impazzire, preferisco manette e cavigliere di pelle. C'è Paola Zay che dice: Pasquini, postaci il numero diretto dei cellulari delle ragazze che di chiamare in trasmissione non ci interessa. Ma puoi mandare i messaggini su 333-180 su Mitic. Azzei, te lo mando su Mitic, va bene? Esatto. Alcuni sono invece molto più gentili, tipo questo signore turco che era in vacanza in Italia, esattamente a Siena, questa nostra amica è di Siena, e questo signore le ha detto: perché non viviamo una fantastica esperienza insieme? Sono a Siena per soli 5 giorni e mi annoio molto. Vorrei andare in giro con una donna bellissima come te, ma con una sola condizione: pagherò sempre io. E sono sposato. Questo era il signore turco. C'è invece la Claudia Basso che non riesce a telefonarci in nessun modo. Ma allora intanto che messaggi. Io continuo il programma, tu chiamala. La chiamo? Chiamala, la chiamo chiamala. Al cellulare? Vai, così. Vai. Dai, un altro. Io la chiamo. Ma no, dal telefono lì? Dal telefono lì? Sì, dai. Vabbè. Sta chiamando qualcuno? Continuiamo. Bene, poi ci sono quelli che vanno diretti. Questo ha una faccia che assomiglia a Ridge Forrester, un tale Paolo, e ha scritto a una nostra amica: ciao, ti piace un uomo molto deciso e passionale? Poi, visto che non ha risposto, questo l'ha scritto in luglio, l'amica non ha risposto, in agosto ha riscritto e ha scritto: ciao, ti piace un uomo molto deciso e passionale? Una circolare praticamente. Comunque non mente. Infatti ha anche ottenuto una risposta: no, ciao. Ci sono altri, però non so se è il momento di coxare ulteriormente. No, io coxerei almeno un altro. Se mi sembra che quasi questa puntata sia più orientata ad aiutare gli uomini a migliorare i profili che le donne, perché era il mio caso di interesse. Sarebbe comunque un'ottima missione, faremo piaceri a molte donne. L'adoro, dottoressa Pons. Di aiutare gli uomini, effettivamente ci sono alcuni uomini che si pongono proprio come delle persone che necessitano di aiuto, e quindi dicono: ciao, sono nuovo di OkCupid, non so bene come funziona. Comunque sono qui per conoscere persone nuove, allegre, interessanti, e magari per condividere le mie passioni. Tu che mi racconti? Questa è la cosa standard. Sono nuovo, ho bisogno di una mano, non conosco come funziona il programma. Che cosa e mi racconti? E lei dice che non è vero? Io dico che percentuale? L'approccio non so usare questo affare non è propriamente la cosa più sensuale e accattivante che si possa immaginare. Perché io la prima volta che ho aperto un profilo in un'applicazione del genere. Perché l'ha fatto anche lei? Ci ho provato. Ma ho scritto. Ci racconti la sua esperienza? Il famoso menù a tendina. Posso avere l'anonimato anch'io? Sì, cosa ha fatto questa sua amica? In realtà tutte persone molto piacevoli. E la prima che mi ha scritto, io effettivamente non avevo capito, l'applicazione in caso si chiamava Lovo o Lovu, non so come, è gratuita, perché molte non lo sono, diffidate da quello che non lo sono. Scusate? No, è che ho la Claudia Basso in diretta che però ha un problema. Sei capace di mettermela? Sì, te la metto subito. Aspetta. Scusate, ma problemi tecnici mi obbligano ad interrompere questo momento. Io volevo sapere invece, ce ne potresti leggere uno invece buono? Cioè, dico, come approccio? Uno valido? Uno valido. Che sì, sono? Sì, allora, un attimo che sfoglio il database di tutte le risposte che sono pervenute dalle nostre ricercatrici sul campo. Intanto che ricercate, diamo il benvenuto a Claudia Basso. Ciao. Vuoi l'anonimato? Pronto? Anche tu? Volevi intervenire in maniera anonima? No, mi dite solo il nome. O anche il cognome è uguale. Solo Basso, dai. Io dico solo Claudia. Come voi. Solo Claudia. Perfetto. Ma qual era il tuo problema? Cioè, hai telefonato perché? Voi parlate solo di arte in questa radio? In senso molto esteso. Arte, cultura, orizzontale, comunicazione. Cioè, a me interessa l'arte del cuore, del sentimento, un problema, no? E di questo io volevo parlare. Forse ho sbagliato radio. No, c'è la posta del cuore. C'è la dottoressa Emma Bovinini, sì, esperta. In amori romantici in amore e generalismo. Ok, posso parlarne? Parlane. Ma sono in diretta? Sì, certo. Tutta l'Italia. Molto bene. Tutta la provincia di Bologna. Va bene. Io sono una ragazza che di Milano, no? Faccio il liceo. E... ti abbiamo creduto. E mi sono innamorata di un mio insegnante, no? Lorenzo Tamigi, che ha fatto una supplenza nel mio liceo, no? Lui però, cioè io mi sono innamorata, questo è il mio problema, lui però non mi considera, avevo capito che gli piacevano le ragazze con i capelli corti, mi sono tagliata anche i capelli molto corti, stile ragazzotto, no? E ho fatto anche un biondo platino, niente. È molto consigliato il biondo platino. Vero, sì, vero. Sì, confermo. Perché so che a lui non piacciono i neri, i colori neri, no? I neri sul in testa. E allora ho fatto biondo platino, ma niente, non mi considera. Allora, se posso permettermi. Ma chi sei, scusa? Io sono Fedra, la co-conduttrice, sono Fedra, l'unica non in incognita in questa trasmissione insieme a te. Ok, e grazie Stefano. Fedra, se allora, mi puoi sulla aiutare. Base delle mie esperienze, intanto che la dottoressa in amori romantici e generalismo elabora un ulteriore consiglio. Oh, certo, è psichiatra però, vero? Anche, volendo, sì, sì. Anche tolgo gli occhiali per essere psichiatra. Ok, va bene. Dimmi. Probabilmente il professore sta aspettando che lei diventi maggiorenne per evitare di prendersi una denuncia. Ma io sono maggiorenne. Ha detto che aveva 17 anni. Il liceo. No. Ha fatto tre volte il liceo per incontrarlo. Io mi faccio. Sono molto brava a scuola, però mi faccio bocciare. Per rimanere lì col professore. Sì, il mio consiglio era, Claudia, di prendere dei brutti voti e passare alle lezioni private. Con questo professore, esatto. Questo è vero, perché io le ho provate tutte, veramente, però mi strugge, sono qui anche piango, prendo gli antidepressivi, cose così, capito? Scegli bene i colori, usa questo, come posso dire, questi piccoli sotterfugi. Gli piace per esempio il color vinaccia? Platino, va bene, io so che a lui ha vinaccia. Mi sa di sì, cioè mi dà l'idea di essere uno così questo. Allora, professor Tamigi. Lei che è biondo platino, fatti degli chatouche. Esatto, vinaccia, esattamente. E richiamaci, facci sapere. Esatto. Vesti un asciugamano antigeno. Grazie molto. Grazie a te, Claudia. È una radio veramente utile. Siamo grazie. Al servizio delle donne innamorate. Soprattutto onesta. Ciao ragazzi, vi saluto. Vado ciao. Buon farmaco antidepressivo. Buona serata. Prego. Buona assunzione di farmaco antidepressivo, che sì, mi sa che certo. È l'ora giusta. Studio qualche pagina della Divina Commedia a memoria, a vedere se mi può aiutare. Ciao perfetto. Ragazzi. Ciao Claudia, ciao. Ecco, questo è stato un momento molto prezioso. Veramente grazie, prezioso, che secondo me anticipa i due minuti di Lola. No, abbiamo il palp del palp, perché se non ti ricordi, prima dell'intervento telefonico, l'esperta in Befane, dottoressa XXX, giusto, aveva chiesto, ma all'esperta di CocaCupid, dottor Dantes. molto bene. Ma esistono avete mai raccolto dei messaggini che sono in realtà sostenibili? Ecosostenibili? Dico sì, bene? Ecco sì, esatto, questa era la domanda. Abbiamo molto il reperto. Molto interessante. Riguardando nei file, effettivamente sono pochi i messaggi che riescono subito ad arrivare al punto, soprattutto se correlati da foto, diciamo, di personaggi non proprio bellissimi. Perché certe volte essere un fotomodello o avere delle foto molto espressive, con delle facce sorridenti, eccetera, aiuta anche il messaggio più scarno. Mentre qualche volta qualcuno arriva là con l'ingegno, là dove la foto non arriva. Per esempio, un signor mi fai male. Ha scritto a una delle nostre ricercatrici: Buonasera signorina, apprezzo i suoi gusti letterari e cinematografici, apprezzo anche le sue smorfie. Ecco, questo è un classico atteggiamento da persona che comunque sia non è rapito da te, però è simpatico, però apprezza le tue smorfie e quindi chiaramente incuriosisce. Si è meritato una risposta, a quanto pare. Altri invece sono fantastici perché non mollano mai, mai, mai, mai. E qualcuno arriva ad usare il profilo della ricevente come una sorta di diario personale a cui poi col tempo raccontare i fatti propri anche senza alcuna risposta. Questi a volte sono particolarmente teneri e carini, ad esempio quando iniziano a parlare come se fossero allo specchio di sé, senza nessun motivo, facendo delle considerazioni vaghe sulla vita. E in questo caso, dopo alcuni mesi in cui da uffa ma ti faccio così schifo, oppure con l'81% di matching dovremmo trovarci bene, comunque ok Cupid è molto dal disco in cui si cantano canzoni d'amore come titolo, però forse l'editron, ma sono troppo di nicchia, troppo fighetti, figo, potrei usare questa chat per depositare i miei pensieri tipo stream of consciousness, soddisferebbe il bisogno di scrivere per se stessi. E questo nei mesi continuava a scrivere, quando a un certo punto ha scritto: certo, se fossi uno scrittore, cosa che però evidentemente non sono, e adesso vado a bermi un caffè, si è meritato una risposta. Questo 2 mesi dopo alla prima cosa, che era: ciao, ti va di parlare. Dottoressa, quest'uomo si chiama il Porci Comodo. Dottoressa, siamo in zona rossa e non abbiamo neppure parlato del matching. Questo mi spinge a dire che dovremmo urgentemente programmare un vostro ritorno per andare addentro a questa, anche perché avevo trovato un reperto che una mia amica aveva ricevuto su Facebook qui, vabbè insomma capita anche quello, però non posso leggerlo perché adesso ci sono i 2 minuti di Loli. È finita, perciò la puntata. No. Ringraziamo la dottoressa Dantes, ringraziamo Anita Pons, le insomma da Radio Montecristo, e poi l'esperta di in amori romantici, generalismo e tardoni su internet. Perfetto. Dottoressa Bovini, e anche lei la invitiamo ovviamente a tornare perché non abbiamo potuto declinare la sua ultima specializzazione. Raccoglierò altre specializzazioni nel frattempo. Dottoressa per Befane Galattiche XXX è invitata per l'anno prossimo indubbiamente, e magari se vuole mandarci qualche altra collega o amica. E ciao Stefano. E naturalmente ringraziamo anche Carolina Invernifi e Claudia Basso, che sono intervenute. Sì. Indubbiamente, sono proprio una coxona, scusatemi. Buon anno. Buon anno. Ciao. Buon anno, ciao. Buon anno. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. I 2 minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Ingerire cibo all'interno di una sauna è una performance che non è mai stata tentata nella storia mondiale. Ho fatto anche una ricerca su Google per sicurezza. Ma parliamo un po' di me. Nei periodi di maggior caldo esco di casa dalle 12 alle 14 per mangiare polenta col cinghiale vegano senza bere un cazzo. A quell'ora le zanzare hanno già mangiato, ma mi girano davanti alla faccia giusto per rompere i maroni. La notte dormo su un materasso così morale che la mattina mi sveglio con i denti spostati. Non sono mai riuscito a fare i rutti finti. Per me è stato un grosso cruccio dal 1977 al 1990. Nello stesso periodo ho aperto una mescita di latte alle ginocchia. Anche ingerire cibo che non sia ostia all'interno di una chiesa non è pratica di uso comune, ma se il bambino ha fame tiriamo pure fuori la tetta o i chicken McNuggets. Sognare di mangiare in chiesa, secondo la smorfia napoletana, è segno di viltà, malafede e reflusso gastroesofageo. Numero 48. Sognare di mangiare pile alcaline AA significa perdite, corruccio, troppi bassi, un cono rotto. Le pile in chiesa non servono, ci sono le candele elettriche. Le chiese in pila non stanno in equilibrio. J. già finito?